Ed eccoci giunti, carissimi, alla 70ª puntata della vita del Santo Curato d'Ars. Vita che si prolunga da ormai quasi 3 anni e che, a Dio piacendo, finirà entro l'estate, intorno alla sua festa che cade, come sapete, il 4 di agosto. Per oggi ci dedichiamo ancora ai fatti mistici, con particolare riferimento alle sue comunicazioni con l'aldilà. Ecco, dobbiamo ora narrare altri fatti, oltre a quelli già narrati, che non sono più semplici visioni, ma vere rivelazioni. Perciò ci autorizzano a ritenere che Don Vianney ebbe da Dio anche il privilegio singolare, di penetrare col suo sguardo oltre i veli che nascondono la vita d'oltretomba. Allora, carissimi, per cominciare, sentiamo anzitutto la testimonianza della solita contessa di Garé, che certo fu una delle testimoni più attente e più qualificate della santità di Don Vianney. E questo per varie ragioni, vuoi perché era una sua parrocchiana, quindi ce l'aveva sempre sotto gli occhi, vuoi perché era una persona colta e sensibile, e quindi capace di captare tante cose che magari ai più potevano passare inosservate. Vuoi perché era una donna, un'anima profondamente religiosa e anche parecchio provata nella vita, perciò nelle disposizioni più adatte per vedere il suo parroco nella giusta luce, cioè la luce di Dio. Vuoi, infine, per la sua posizione privilegiata di persona benestante e aristocratica, quindi in contatto continuo e diretto con altre persone come lei che potevano fornire idee nuove anche sul curato d'Ars, e in genere favorivano in lei un continuo progresso culturale. Va detto inoltre che la contessa di Garé era moglie del sindaco, vero? E questa era senz'altro una ulteriore posizione di privilegio a questo riguardo, perché il sindaco può sapere molte cose che altri non sanno e può introdursi in tanti ambienti ad altri inaccessibili. Per non dire che il conte di Garé, suo marito, non solo fu il sindaco di Ars, ma fu anche un amico personale del suo parroco, dobbiamo dire anzi un caro amico. Quindi abbiamo un quadro che certo rende la contessa di Garé testimone di prim'ordine nella vita del nostro santo. Beh, udiamo allora a questo punto le sue preziose parole. Dice: «È mia convinzione che Don Vianney avesse comunicazione dirette con le anime dei trapassati, e nulla gli fosse nascosto di ciò che avveniva in purgatorio. Quando mio figlio Giovanni morì per la Francia nella guerra di Crimea, il nostro santo curato subito mi tranquillizzò sulla sua salvezza, e dopo pochi giorni, facendo ancora allusione a lui in uno dei suoi catechismi, si lasciò sfuggire queste parole: è come questo povero figliuolo, è in purgatorio, ma per poco tempo. Bene, così prosegue la contessa di Garé, dice: ci rimaneva tuttavia ancora un dubbio, perché non si sapeva se il nostro Giovanni, in punto di morte, avesse avuto l'assistenza del sacerdote. Ed ecco che dopo 6 mesi un ufficiale ci faceva appunto sapere che nostro figlio aveva ricevuto i sacramenti dei moribondi e aveva fatto una morte edificante. Per cui mio marito si affrettò a portarne notizie al curato, il quale, senza meravigliarsi, si accontentò di rispondere: mi fa piacere questa notizia, perché consolerà sua madre, ma non cambia nulla di quello che già credevo. Beh, adesso, carissimi, vediamo subito un secondo fatto che ci testimonia come egli fosse davvero in contatto con l'aldilà e fosse a conoscenza delle cose dell'aldilà. Una giovane religiosa, dopo avergli chiesto consiglio sulla sua vocazione, volle sapere da lui se suo padre, morto improvvisamente, si era salvato. Attenti, ricevette la seguente risposta: sì, figlia mia, ma è molto in basso, pregate per lui. E qui mi pare che non possa non venire in mente quanto dice la Madonna a Fatima nella prima apparizione, quando Lucia volle sapere la sorte di 2 giovinette, sue amiche, morte da poco. e come sapete ebbe in risposta che la più giovane di 16 anni era già in cielo, mentre l'altra sui 18-20 anni era in purgatorio e vi sarebbe rimasta a lungo. Anzi, l'apparizione avrebbe detto addirittura fino alla fine del mondo. E se voi andate a guardare, in nota, è sul famoso libro del Da Fonseca, intitolato Le meraviglie di Fatima, troverete scritte queste parole. La giovane, tentata come Santa Maria Goretti, non aveva però avuto il coraggio della santa. Morta poco dopo, ebbe appena il tempo di fare in fretta la confessione. Adesso fermiamoci un attimo, una pausa musicale, poi continuiamo subito. Comunque adesso passiamo subito a un terzo episodio. Circa il 1849 venne a confessarsi da lui la signora Meunier. E prima ancora che ella avesse cominciato la sua confessione, il santo le faceva questo ammonimento. Figlia mia, vostro marito lavora di domenica. Ditegli a nome mio che lasci questa cattiva abitudine e che verrà un giorno nel quale sarà contento di avermi dato ascolto. E aggiunse, non ci si deve scambiare la promessa di venire dopo morte a riferire quello che avviene nell'altro mondo, perché Dio non ne concede il permesso che a pochissime anime. E qui dobbiamo dire, carissimi, che la signora Meunier e suo marito si erano appunto scambiati precisamente questa promessa di riferire all'altro circa la propria sorte. Bene, quell'uomo fu ossequiente alla parola del curato d'Ars e non lavorò più in giorno di festa. E l'anno dopo, precisamente la domenica della Santissima Trinità, ritornando in carrozza dai Vespri, fu gettato a terra dal cavallo che si era spaventato e morì senza aver ripreso conoscenza, perciò senza poter ricevere i sacramenti. Beh, attenti, la signora Meunier, 7 settimane dopo questa disgrazia, inquieta sulla sorte eterna del marito, veniva per esporre i suoi dubbi a Don Vianney. E il santo, appena ebbe aperto lo sportello del confessionale, le disse, senza che lei avesse il tempo di aprire bocca, le disse: figlia mia, voi pensate che persone della vostra famiglia si siano dannate, ma io non lo credo. Allora la donna chiede: padre mio, la persona che mi interessa dovrà stare molto in purgatorio? Aspettate, rispose il santo. Dette queste parole, si raccolse nel confessionale e per 5 minuti buoni lo si intese parlare come da solo, ma anche come fosse in comunicazione con un essere invisibile. Poi, avvicinandosi alla grata, esclamò sospirando: povera madre, che disgrazia! A questo punto dobbiamo ricordare che la signora Meunier non gli aveva ancora detto che aveva 5 figli e che la morte di suo marito l'aveva lasciata quasi senza risorse. Attenti qui come prosegue il curato. Dice: gli occorreranno poche messe per andare in cielo. Vi giungerà precisamente fra 3 anni e lo saprete da uno dei vostri figli. Difatti, 3 anni più tardi, uno dei suoi figli, ancora in tenera età, moriva presso una zia lontano da casa e nella notte del decesso la madre lo vide in sogno salire al cielo insieme con suo padre. Ma attenti, ritenendolo in buona salute, dapprima non fece caso al sogno, vero? E solo quando ricevette la notizia della morte ricordò la predizione di Don Vianney. Beh, passiamo ora subito a un quarto episodio, sempre inerente a questa sua dote di conoscere la sorte dei trapassati. Dobbiamo dire anzitutto che qualche volta vennero ad Ars persone desolate per la morte dei parenti peccatori che essi temevano dannati per l'eternità. Allora in questi casi il misterioso sguardo di Don Vianney andava oltre le loro desolazioni. Ebbene, il racconto che faremo adesso ci viene riferito da un'altra nobildonna, la famosa baronessa di Belvei, che pure ebbe molto a che fare col curato d'Ars, essendo una sua assidua penitente, quindi essendo sempre in contatto diretto con lui. Sentiamo ora il suo racconto. Dice: una pia signora, che la baronessa non vuole nominare, aveva uno sposo di nessuna fede religiosa e pregava per la sua conversione, sempre agitata al pensiero che un'avanzata malattia di cuore, della quale soffriva, lo portasse alla tomba improvvisamente. E qui la baronessa ci ricorda che questa signora ornava con delicata attenzione una statua della Madonna che teneva in casa, ed era suo marito a cogliere i fiori, ben sapendo a quale uso avrebbero servito. Bene, la morte avvenne quasi improvvisa, senza sacramenti e senza che l'infelice avesse potuto rendersi conto del suo stato. E questo lo ricordiamo ancora dopo tante preghiere di sua moglie per lui, per cui il dolore della sposa fu così vivo che si ammalò e sembrò impazzire. E quando si riprese un po', volle fare subito il viaggio dal suo paese lontano per cercare un po' di consolazione dal curato d'Ars. Attenti, il curato al primo incontro, non appena la vide, le disse: «Signora, non vi ricordate dei mazzi di fiori che offrivate alla Santa Vergine?» Bene, queste parole che dapprima le furono causa di meraviglia, la rassicurarono e formarono poi la sua consolazione e le resero la salute del corpo e la tranquillità dello spirito. Ecco, mi pare questo un episodio davvero bellissimo, vero? Che ci dice che ogni gesto delicato nei riguardi della Madonna, anche quello di cogliere i fiori per la moglie, sapendo a quale uso sarebbero serviti, il Signore lo apprezza molto e lo considera merito sufficiente per salvarti. E penso che qui chissà quante persone tireranno un sospirone di sollievo circa la sorte dei loro cari, eh? E io mi chiedo: possibile che nella vita di un uomo non c'è mai neanche un gesto del genere? Come si può essere cuori di pietra al punto da non pensare mai a Dio e all'aldilà e da non avere mai neanche una delicatezza nei riguardi del prossimo? Beh, adesso vediamo un quinto episodio dei nove in programma, eh? Un giorno del 1855-56 faceva visita ad Ars un sacerdote. Ebbene, una povera donna in lutto, che durante il viaggio era sempre stata seduta vicino a lui, ascoltando in silenzio i discorsi che si facevano sulle meraviglie di Ars e del suo curato, gli rivolse finalmente per la prima volta la parola quando giunsero alla stazione di Villefranche. «Reverendo, mi permettete di seguirvi fino ad Ars? Vengo là come andrei in qualsiasi altro luogo. Viaggio perché ho bisogno di distrarmi». Il sacerdote fu presto d'accordo e accettò anche di farle da guida fino al villaggio. Bene, preso posto nella medesima vettura, continuarono il viaggio fino ad Ars, dove giunsero quando il curato finiva il catechismo delle 11. Stavano fra la chiesa e la canonica quando videro Don Vianney, che ancora indossava la cotta, avanzarsi tra la folla e dirigersi verso questa povera donna, che in quel momento, per seguire l'esempio dei pellegrini, si era inginocchiata. E qui, attenti, colpo di scena. Il santo, chinatosi al suo orecchio, le disse distintamente queste parole: «Egli è salvo!» La sconosciuta ebbe un sussulto. Don Vianney ripeté: «Egli è salvo!» E qui dobbiamo dire, carissimi, che la risposta a queste parole fu un gesto di incredulità da parte della donna. Allora il santo, scandendo ben bene le parole, aggiunse: Vi dico che egli è salvo, si trova in purgatorio e si deve pregare per lui. Tra il parapetto del ponte e l'acqua ha avuto il tempo di fare un atto di contrizione. E la Santa Vergine, è la Santa Vergine che gli ottenne questa grazia. Ricordate le devozioni del mese di maggio nella vostra camera? Qualche volta il vostro sposo, quantunque irreligioso, si è unito alla vostra orazione e questo gli ha meritato il perdono. E qui dobbiamo dire, carissimi, che il sacerdote che l'accompagnava naturalmente non comprese nulla di queste parole e solo il giorno seguente seppe della meravigliosa luce che aveva illuminato il servo di Dio. Per cui la sconosciuta trascorse nella solitudine e nella preghiera le ore che seguirono il suo incontro con Don Vianney e, come prevedibile, la sua fisionomia si era come trasformata e la sua anima aveva ritrovato la pace. Prima di partire, come naturale, ringraziò quel sacerdote cui disse queste parole. I medici mi consigliarono di viaggiare per distrarmi dall'atroce disperazione che seguì nel mio animo alla tragica morte di mio marito, che era incredulo e che io speravo di poter condurre alla fede. Però disgraziatamente egli annegò con un suicidio volontario e io non potevo rassegnarmi al pensiero che fosse dannato e che non lo potessi più rivedere. Ebbene, voi avete sentito la parola di conforto che mi è stata detta. Egli è salvo, quindi lo rivedrò in cielo. Reverendo, le dico sinceramente che qui ho trovato la guarigione e la pace. Beh, giunti a questo punto, carissimi, non ci sono davvero parole per commentare questo meraviglioso episodio. Episodio che getta luce anche sulla sorte di chi morì suicida, e apparentemente quindi impenitente. Ma non è mai detta l'ultima parola. Basta anche una semplice preghiera detta nel mese di maggio, quasi per far piacere alla moglie, basta a salvare un'anima che per la disperazione si toglie la vita. Adesso facciamo un altro stacco, poi, carissimi, proseguiremo e concluderemo. Raccontiamo adesso gli ultimi quattro episodi, che sono tutti piuttosto brevi. Sesto episodio. Il biografo ci attesta qui che è ricordato un caso solo nel quale sembra che Don Vianney abbia tremato al pensiero della dannazione di qualche defunto. Però è ovvio che se Don Vianney ha fatto in altre occasioni simili amare confidenze, è ovvio che era interesse dei superstiti di custodire gelosamente il doloroso segreto, vero? Bene, un certo signor Paget dice che una donna venuta da Parigi o dai dintorni chiese al curato dove fosse l'anima di un suo parente morto da poco tempo e ricevette questa laconica risposta, alla quale il santo non aggiunse nessuna parola di commento. Disse: non ha voluto confessarsi prima di morire. Ed era proprio la verità, il morente aveva rifiutato il sacerdote in punto di morte. E questo particolare non poteva certo essere noto a Don Vianney, da fonte umana. Comunque dobbiamo dire, carissime, che più volte invece ha detto parole di vera consolazione a persone in lutto, alle quali assicurava che l'anima rapita alla terra godeva già dell'eterna beatitudine. Così, per esempio, consolava una giovane che aveva perduto la madre da poco tempo, con queste parole: quanto si è felici di avere dei parenti in cielo. Vostra madre fu molto paziente nella sua malattia. Dio l'ha ricevuta ed ella ora prega per voi. E ora passiamo subito a un ottavo e un nono episodio, entrambi riferitici ancora una volta da quella preziosa testimone che fu la contessa di Garet. Ascoltiamo le sue precise parole giurate. Dice: una giovane nostra parente aveva perduto sua madre, la cui vita era stata segnata da innumerevoli prove, e venne ad Ars per vedere Don Vianney. Appena il santo la vide sulla porta della sacrestia, le rivolse subito la parola dicendo: figlia mia, avete dunque perduto vostra madre. sappiate che ella è in cielo. Lo spero, signor curato, risponde la ragazza. Sì, sì, è in cielo. E quando la giovane gli presentò il rosario di sua madre perché lo benedicesse, egli lo prese e lo baciò con rispetto come fosse una reliquia. E qui la contessa ci riferisce subito appresso un ultimo e nono episodio. Attenti cosa dice. Un'anziana signorina moriva in seguito a lunga e dolorosa malattia, dopo una vita tutta consacrata all'esercizio di opere buone. Io, dice la contessa, la raccomandai alle preghiere di Don Vianney, ma egli mi rispose che era inutile pregare per lei. E anche quando la cognata della defunta gli chiese di celebrare messe per il riposo della sua anima, oppose un rifiuto, dicendo non ne ha bisogno. E così, carissimi, anche per oggi abbiamo terminato il nostro racconto, sperando proprio, sperando vivamente di aver edificato l'uditorio, e penso che attraverso questi racconti noi abbiamo ottenuto due scopi. Primo, riaccendere nel nostro cuore la nostalgia del cielo. Secondo, comprendere ancora di più l'infinita misericordia di Dio, che tiene conto anche di piccoli gesti per rimediare, per giustificare anche una vita sbagliata. Quindi, per poco che ci sia di bene nella vita di una persona, di un uomo, non dobbiamo mai disperare circa la sua sorte eterna. Anche quest'uomo è figlio di Dio e perciò da lui molto amato e perdonato. Adesso allora concludiamo, carissimi, e diamo senz'altro spazio al Rosario di Mezzanotte, cui vogliamo disporci con molta fede e con molto amore. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.